Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Buongiorno a tutti, benvenuti a quest'altra puntata di Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon. Torniamo su un personaggio cardine nella vicenda del Pioniere, ovvero sia Carlo Pagliarini, che assieme a Dina Rinaldi e lo stesso Gianni Rodari fece parte dei tre moschettieri che progettarono questo intervento tra i giovani poveri, i giovani vittime della guerra, i giovani molto spesso esclusi dall'istruzione, che vivevano questa Italia del dopoguerra. Carlo Pagliarini infatti fu l'uomo che promosse le associazioni Pioniere d'Italia, a questi gruppi territoriali di ragazzi nei paesi e nelle città che non solo diffondevano il Pioniere ma anche facevano attività culturali autonome come teatro, musica, cinema, giornalismo, oppure andavano in campeggio, cosa allora abbastanza inusuale. Insomma, osavano, tra virgolette, pretendere tempo libero anche per i figli delle classi lavoratrici. Con lo scioglimento dell'Associazione Pioniere d'Italia, Carlo Pagliarini passò all'ARCI, diventando ben presto dirigente nazionale e nell'80 fondando l'ARCI Ragazzi. E quindi la nostra trasmissione raccoglie la testimonianza di Anna Maria Berardi, presidente dell'ARCI Ragazzi di Roma, che incontrò Pagliarini in un non facile incontro ravvicinato del terzo tipo. Sentiamo la sua testimonianza raccolta da Morina Moretti. Anna Maria Berardi, tu hai conosciuto e soprattutto lavorato con Carlo Pagliarini già in anni ormai che si possono definire remoti, e penso che questo tuo incontro con Pagliarini e forse anche il suo con te sia stato negli anni un rapporto molto fruttuoso proprio per la storia della formazione, dell'educazione e della ricreazione dei ragazzi. Io Carlo Pagliarini l'ho incontrato alla fine degli anni 70 quando avevo iniziato a collaborare con la rivista Riforma della Scuola, che era edita dagli editori Quiniti e era diretta all'epoca da Lucio Lombardo Radice. Io collaboravo appunto come esterna, poi successivamente sono entrata anche nella redazione proprio come redattrice, ma in quegli anni ci riunivamo un po' quasi una volta a settimana tutti noi collaboratori, e c'è anche Carlo Pagliarini fra questi, per discutere su tutti i temi che allora erano quanto mai caldi, no? Del rinnovo dell'educazione, della scuola e così via. E quindi in quell'occasione io ho incontrato lui. Devo dire che ci siamo capiti su tutti i punti essenziali che in quel momento erano punti caldi, cioè la scuola che doveva essere rinnovata, rimettere i ragazzi al centro dell'educazione e così via. Però non ci eravamo subito capiti con Carlo, perché io all'epoca insegnavo in una scuola elementare sperimentale, era una delle prime scuole a tempo pieno, scuola di Grotta Rossa a Roma. Noi facevamo una scuola di 8 ore, però non erano chiaramente 8 ore così come le si può intendere con i ragazzi, 8 ore nei bambini, 8 ore nel banco. Era una scuola che era molto aperta anche già allora, perché questa scuola è stata aperta nel 72, era aperta ai contributi esterni, alla collaborazione dei genitori per esempio nella scuola, quindi allora era una cosa assolutamente nuova. Tra l'altro avevamo abolito l'insegnante di classe già allora e lavoravamo per settori, cioè chi lavorava nell'area espressiva, chi nell'area scientifica, artistica e così via. Carlo Pagliarini era molto critico nei confronti della scuola e per lui la scuola toglieva tempo prezioso ai ragazzi, il che era vero in generale, perché la scuola praticamente in qualche modo tante volte fagocitava la libertà dei bambini, però noi invece le intendevamo come un'apertura cioè la scuola che doveva aprirsi al territorio e quindi essere un tutt'uno con il territorio e quindi aperta al territorio e a tanti apporti anche culturali che venivano da fuori. Pagliarini all'epoca probabilmente lui veniva da un'esperienza completamente diversa, non aveva un'esperienza sulla scuola ma sull'associazionismo. L'associazionismo in qualche modo si contrapponeva alla rigidità, diciamo, della didattica e quindi evidentemente lui giustamente dal suo punto di vista si metteva in contrapposizione e allora all'inizio avevamo anche dei battibecchi molto molto forti, poi invece alla fine ci siamo capiti, cioè lui ha capito che cosa intendevo io per scuola, quindi una cosa del tutto diversa da come era la scuola per la maggior parte degli istituti in quell'epoca e naturalmente io ero molto interessata alle sue idee dell'associazionismo educativo, insomma, ecco. Quindi questo è stato l'incontro con Carlo Pagliarini. Ma poi dopo negli anni avete collaborato? Diciamo che io ci sono rimasta sempre in contatto con lui, piano piano ho seguito, diciamo, il nascere dell'Arci Ragazzi, ripeto, l'Arci Ragazzi nazionale è nato nel 1981. Poi, ricordiamo che fu lui di fatto primo animatore dell'Arci Ragazzi. Sì, perché lui veniva poi anche dalle esperienze che aveva avuto al suo tempo con il Movimento dei Pionieri d'Italia, quindi parliamo della fine degli anni 50, in quel periodo lui collaborò con Gianni Rodari, con Loris Malaguzzi, con Bruno Ciari e quindi con tutti i grandi educatori innovatori di quel periodo, quindi lui portò anche quell'esperienza maturata nei Pionieri d'Italia. Che lui, ecco, tra l'altro non nasce come educatore, ha una formazione anche, si potrebbe dire oggi, lacunosa. Autonoma, sì, diciamo. Autonoma, lui no, assolutamente, lui faceva tutt'altro mestiere, adesso non ricordo neanche bene, ma comunque non aveva niente a che fare con l'educazione, però il suo impegno politico durante, purtroppo durante la guerra, così, e quindi... Sì, ricordiamo che lui fece la resistenza e poi appena finita la guerra si occupò subito di movimenti giovanili a Reggio Emilia. Quindi questa sua passione politica lo portò a occuparsi, giustamente tra l'altro, dei bambini e dei ragazzi, perché pensava che da lì potesse rinascere qualcosa di nuovo per il nostro paese, insomma, e non solo. Anna Maria Berardi, era questo un ideale, un'idea che ha attraversato quell'epoca, l'epoca dopo guerra, e stiamo parlando soprattutto dei movimenti laici, di insegnanti, sì, di educatori, ecco, sì. E Carlo Pagliarini ha dato questa esperienza un contributo, perché aveva comunque una pedagogia, possiamo chiamarla così, anche originale, diciamo, no? Rispetto ai giovani. Sì, perché lui voleva mettere al centro del processo educativo proprio i bambini e i ragazzi come protagonisti, cioè bambini e ragazzi che dovessero essere al centro proprio del processo educativo da parte degli insegnanti, anche degli educatori, anche delle associazioni, e questo l'ha portato sempre, questo concetto l'ha portato sempre avanti, cioè lui ha avuto sempre una grandissima fiducia nella possibilità e nelle potenzialità che i bambini hanno non soltanto per quanto riguarda la loro stessa educazione, ma anche per quanto riguarda poi il contributo che i ragazzi e i bambini possono dare al rinnovamento dell'ambiente, cioè il concetto che un ambiente adatto ai bambini è sicuramente un ambiente adatto anche per tutti. Viene da lì poi, cioè rinnovando, pensando ai bambini, rinnovando le città per esempio, in modo tale che siano a misura di bambino, è evidente che porta un beneficio a tutti, anche agli adulti, e quindi ecco la centralità di questo pensiero di Carlo. E naturalmente questo pensiero è collegato al discorso della partecipazione, cioè i bambini e i ragazzi devono poter partecipare alla vita civile fin da bambini, con le loro proposte, con le loro idee, in modo da costruire insieme agli adulti, diciamo, la società. E tant'è vero che poi nel 95 Carlo fondò pure Democrazia in Erba, che era un'associazione che riuniva tutti i consigli comunali dei ragazzi in Italia. Allora erano nati in parecchi comuni d'Italia i consigli comunali dei ragazzi, che partecipavano a quelli degli adulti per portare le loro proposte, le loro idee, e quindi si riunirono in questa associazione Democrazia in Erba, che però adesso ormai, poi dopo che Carlo è morto, non ha avuto più seguito, insomma, peccato. E però nell'Arci Ragazzi rimane tutto questo. Tutto questo resta nell'Arci Ragazzi, e oggi praticamente ci sono moltissime regioni d'Italia, e l'Arci Ragazzi, c'è l'Arci Ragazzi Nazionale, che poi a cui fanno capo poi vari circoli e comitati regionali e locali dell'Arci Ragazzi, e quindi che continuano a portare avanti questi principi, insomma, che sono i principi, innanzitutto poi l'attuazione concreta applicazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Ecco, ricordiamo in che anno, perché anche è recente, diciamo. Sì, è la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, e nel 91 fu ratificata dall'Italia, quindi divenne anche una legge dell'Italia. Quanto applicata, ahimè, purtroppo ancora oggi c'è da lavorare. Oggi c'è da lavorare veramente tanto. Carlo lavorò tantissimo anche prima dell'89, girando anche per il mondo, è andato in Sud America, si è confrontato con degli educatori sudamericani. Lui voleva che si arrivasse a questa convenzione che affermasse i diritti dei bambini, proprio i principali diritti dei bambini in tutto il mondo. Nell'89 ci si arrivò. Poi lui fu in qualche modo anche un po' l'autore, stilò insieme a Livia Turco successivamente la legge che ancora è valida, la legge nazionale infanzia che ancora abbiamo in Italia, la legge 285 che è del 97, per promuovere il benessere dei bambini e dei ragazzi, quindi una legge che va a finanziare tutti quei progetti che non è che vanno a tappare, diciamo, i buchi dell'emergenza e del disagio, ma lo vogliono prevenire con la promozione del benessere. Pulcinella e Colombina, stanchi di essere appesi per la testa a un filo, decidono di abbandonare il gran teatro di marionette diretto da Fernando Malvasia. Fuggiti dal paese di Te lo domando, le tre marionette vanno incontro alla vita, senza fili, si intende. Radio Città Fujiko presenta Marionette in libertà. Massimo Vitali legge Gianni Rodari. Capitolo primo. Qui si presenta la compagnia di Don Fernando Malvasia. C'era una volta, non so più quando, là nel paese di Te lo domando, un gran teatro di marionette, delizia di bimbi, soldati e servette. Dirigeva la compagnia Don Fernando Malvasia, così chiamato, dovete sapere, perché era amico di un bicchiere. Anzi, adesso ve lo dico, di quel bicchiere era troppo amico. Un'ora sì e l'altra pure lo circondava di mille premure. Che brutta cera, povero vecchio! Certo, hai bevuto acqua di secchio. La medicina io ti darò, di Chianti Rosso ti colmerò. Lo colmava, lo vuotava e da capo lo consolava. Meschinello, ma non vedete? Così vuoto, chissà che sete. Per fortuna io non mi stanco, ti colmerò di Chianti Bianco. Così bevendo e così trincando passava il giorno il sor Fernando, e giunta l'ora dello spettacolo stava in piedi per miracolo. Le marionette erano poco contente d'un tal padrone, anzi, proprio per niente. La regina, per farne un caso, coi ditini si tappava il naso. Non ho più trono né corona, ho un regno di legno e vesto alla buona, ma un po' di riguardo m'è pure dovuto. L'odore del vino mi dà lo sternuto. Salute. Grazie. Il diavolo, poveraccio, dal freddo che aveva pareva di ghiaccio. Il padrone, gotto a gotto, si è bevuto il mio cappotto. O lascia il vino per l'acqua di soda, o mi si beve le corna e la coda. Dietro le quinte, in un angolino, solo Soletto stava Arlecchino. Solo Soletto se ne stava, perché del vestito si vergognava, e sospirava, sospironi. Siamo attori o siamo straccioni? Il mio costume, senza meno, ha più colori dell'arcobaleno. Lo feci chiedendo la carità, qua una toppa, l'altra là. Vedete questa? Sul mio braccio destro me la diede in ricordo un maestro. In elemosina un curato una volta mi diede un ginocchio consumato. Pulcinella sera e mattina faceva la corte a Colombina, ma il sor Fernando soleva gridare: queste nozze non sanno da fare. Insomma, tutti, chi meno chi più, col principale ce l'hanno su. Ma al momento d'andare in scena si scordavano di ogni pena, e per puro amore dell'arte facevano bene la loro parte. Con gran delizia di bimbi, soldati, assessori ed avvocati. Là, nel paese di Te lo domando? Una volta,

metterci le mani, a metter le bandiere sul balcone. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guitti sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole. Napoleone prima andava matto per sto dramma, e ogni sera con la sua mamma ci veniva ad ascoltare. Napoleone di Francia piange ancora e si dispera, da quel dì che verso sera ce ne andammo senza recitare. Eppure voi ragazze piangerete se dramma non vedrete fino in fine. Napoleon francese per vederci da vicino venne apposta sul Ticino contro i crucchi a guerreggiar. Napoleone primo che in prigione stava all'elba vi scappò un mattino all'alba per venirci a battere le mani. Oh. Ma che aspettate a batterci le mani, a metter le bandiere sul balcone? Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone. Vedrete una regina scellerata, innamorata con... E con un Dario Fo dannata che ci riporta al mondo dei saltimbanchi, noi ci salutiamo per questa puntata. Naturalmente l'appuntamento è sempre la domenica prossima, sempre a stessa ora, ore 16, sempre a stessa frequenza, Radio Città Fugico 103. Per riascoltare la trasmissione, come sempre, i podcast possibili sono radiocittafugico.it, ovvero sia ilpioniere.org. Ciao a tutti e risentirci. Venite tutti in piazza fra due ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore, e poi farà 3000 capriole. Radio Città Fugico e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro un balun. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman?